con Daniele Marzeddu per presentare la sua mostra Our Sardinia, un viaggio fotografico a Bologna dal 20 al 30 gennaio 2019. Daniele, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori. Ci racconti un po' di questa mostra? Certo, sì, la mostra è già stata presentata in Inghilterra, dove abito, nella città di Northampton a novembre. È una mostra evento perché ci sono 27 foto di viaggi che ho fatto in Sardegna sostanzialmente da primi 2000 fino a quest'estate 2018. E dicevo, ci saranno fotografie, poi ci sarà un live set di questo giovane musicista Stardust Batter che farà una performance. Si sta evolvendo anche in un evento in occasione del centenario della pubblicazione di Mare Sardegna di David H. Lawrence, che avverrà nel 2021, così in progress, come dicono in Inghilterra. Stiamo aggiungendo anche questo media all'evento. Daniele, che luoghi e che soggetti nella tua attenzione fotografica? Sono sostanzialmente tre tipi di soggetti: maschere dei carnevali barbancini e del carnevale oristanese, maschere nude, ossia personaggi che interpretano maschere ma smascherati, luoghi notturni e all'alba. Sostanzialmente situazioni che capitano quando si viaggia, perché dal mio punto di vista viaggiare significa partire un po' come facevano i personaggi di Amici miei alla Zingarata, essere zingari, ed è questo che ho sempre fatto fin da quando ero piccolo, perché sono di origine sarda, figlio dell'emigrazione, e quando si andava in viaggio si partiva e si arrivava attraverso vari eventi e situazioni. Quindi questo è un po' quello che ho pensato di far vedere in questa mostra. Diciamo, si parte da Sardegna Centro-Ovest per fermarsi a Oristano, sempre sull'ovest, e poi per giungere a Mamoiada nel cuore della Barbagia. Sono foto che avevo già nel mio archivio, quindi sono foto scattate dal 2003 fino al 2018, in un arco temporale di 15 anni, grosso modo. Diciamo, nella testa ce l'avevo già prima del 2003, perché andando molto spesso in Sardegna per viaggi, ho visitato molto spesso i carnevali, insomma, poi è arrivata la macchina a documentare tutti questi percorsi e queste situazioni molto esilaranti. La Sardegna da dietro una macchina fotografica, che impressione ti ha dato? È un po' complesso per me da dire, perché io non sono sardo, sono di origine sarda, quindi ho utilizzato la fotocamera prima di tutto per portarmi a casa delle istantanee di soggetti, situazioni, personaggi di cui avevo sentito lontanamente parlare. E quindi con un occhio piuttosto ingenuo sono andato là, dove non sapevo cosa avrei trovato in termini di situazione in festa. Conoscevo le maschere che le avevo viste su numerose pubblicazioni, ma sostanzialmente sì, ho usato la macchina divertendomi, è quello lo spirito poi della festa del carnevale un po' ovunque, ma in Sardegna particolarmente, perché è un evento che accoglie comunità che vengono da fuori, magari da Cagliari, quindi i paesi si aprono con l'accoglienza che è tipica sarda. Questo è stato quello che ho potuto provare principalmente con la mia esperienza, e poi è difficile poi descrivere le proprie foto, è difficile descrivere le proprie foto, ma ecco, ho voluto, se posso osare dire una cosa del genere, ho voluto estrinsecare, termine molto aulico, sì, il sentimento del viaggiare, quindi fuori dai target, liberarsi dai target quotidiani e abbandonare gli scopi che uno si pone davanti nella vita quotidiana di tutti i giorni. Daniele, quale sarà il luogo della mostra? Il luogo della mostra è un circolo sardo cinese che si chiama Circolo Sella del Diavolo. Ci siamo scelti a distanza, perché io, abitando in Inghilterra, cercavo un posto dove fare questa mostra. Ci siamo sentiti con Andrea, il proprietario, via telefono, e mi piaceva molto anche il fatto che non è solo un circolo sardo, ma c'è una unione di culture, la Sardegna cinese o la Cina sarda, molto intrigante, quindi lui ha accettato subito e la mostra sarà lì nella sala principale, accompagnata da mirto, vino, spuntini sardi. Quindi sarete tutti benvenuti dalle 5 in poi, ci sarà un'occasione per rivedere persone che già conoscevo, e chi sarà curioso poi di venire al Carnevale Sardo, sarò io personalmente in Sardegna dal 28 febbraio, giovedì grasso, fino all'8 di marzo. In realtà sì, ho creato una tour dei carnevali per chi volesse aggregarsi. Si comincerà dal Carnevale di Ottana in provincia di Nuoro il 28 febbraio. E comunque trovate tutti i dettagli sul mio sito danielemarfreddu.com o su Instagram danielemarfreddu, per chi volesse contattarmi e venire a fare un viaggetto in Sardegna per il carnevale, sarò ben contento di guidare chi vorrà aggregarsi. E allora ricordiamo l'appuntamento con la mostra Awar Sardinia, un viaggio fotografico a Bologna, Circolo Sardo Sella del Diavolo, dal 20 al 30 gennaio. Un saluto e un ringraziamento all'artista Daniele Marzeddu. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Senti, grazie Federico, sempre un piacere di sentirti.